Giovedì 7 settembre 2017, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Visionario, il consueto appuntamento con il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e anche prima spesso e volentieri. Ci ascoltate in diretta qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con la nostra prima ospite della giornata, che è Anastasia Plazzotta di Wanted, sulla distribuzione del documentario Walk With Me di Mark Francis e Max Pug, in uscita in sala il prossimo 12 settembre. Anastasia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Dici un po' di questo documentario. Allora, questa volta diciamo il tema che andiamo un po' ad affrontare, visto che i nostri film generalmente ruotano tutti attorno a dei temi ben specifici, questa volta è una cosa inedita che non abbiamo mai affrontato prima, ovvero la mindfulness, la meditazione, il mondo di riferimento, quindi il buddismo e lo zen, e lo facciamo naturalmente partendo da quello che è diciamo il vero maestro di questo di mindfulness, ovvero il monaco vietnamita buddista Thich Nhat Hanh, che per tutti gli interessati, gli studiosi di questa pratica è considerato davvero un punto di riferimento assoluto. Infatti Thich Nhat Hanh è addirittura stato a suo tempo nominato per prende il premio per Oscar, scusate, il cinema, il premio Nobel per la pace. Cosa ci racconta questo film? Per la prima volta ci porta dentro una comunità buddista, quella che Thich Nhat Hanh ha fondato in Francia, accanto, vicino a Bordeaux, che si chiama Plum Village, dove ospita, raccoglie laici e monaci che hanno deciso di cambiare la propria vita oppure insomma di dedicarsi comunque alla meditazione, alla ricerca della consapevolezza, perché è quello che insegna il maestro, soprattutto questo, cioè riuscire ad essere sempre qui e ora e a approcciarsi alla vita in modo completamente diverso. Quindi per la prima volta il film, che comunque i registi per 3 anni hanno abitato assieme ai monaci dentro questo villaggio, questa comunità, ci fa scoprire qual è la vita quotidiana, cosa succede in un monastero buddista oggi, qual è la pratica, la vita quotidiana, quali sono i messaggi, eccetera. Quindi noi entriamo proprio in un flusso coi tempi proprio anche loro della meditazione, ascoltiamo le parole di questo maestro che è veramente noto, ha pubblicato tantissimi libri che sono stati tradotti in tutto il mondo, anche da noi in Italia, ed è considerato anche un poeta, quindi una persona davvero che infonde pace e ha qualcosa da dire. Senti, quali sono le peculiarità e le caratteristiche positive della meditazione? Allora, posto che appunto io questo film mi ha proprio avvicinato e mi ha fatto venire voglia di approfondire, questa è una cosa positiva, nel senso che credo che sia proprio uno degli obiettivi di questo lavoro, uno dei motivi per cui Thich Nhat Hanh per la prima volta ha consentito, no, a farsi riprendere, ha ospitato una troupe per così tanto tempo dentro un monastero. Quindi devo premettere che io non sono un esperto di mindfulness e lo sto scoprendo proprio, l'ho scoperto anche avvicinandomi al film e a tutte le straordinarie persone che abbiamo conosciuto promuovendo questo film, tantissime associazioni, tantissime scuole che con grande entusiasmo, peraltro, scusami la digressione ma è importante, ci stanno aiutando a condividere, a promuovere autonomamente, proprio di propria spontanea volontà, perché capiscono l'importanza del contenuto che questo film veicola. Stanno facendo veramente un tam tam sul web, sui social, molto importante. Quindi credo, da quanto almeno viene fuori, che l'importanza è proprio riuscire a concentrarsi su quello che, a godere di quello che hai, a non pensare che la giornata di oggi sia, che domani sia migliore dell'oggi, ognuno in qualche modo. Ma è una cosa che interessante, che è la meditazione, questa mindfulness, è applicata nella vita quotidiana, nei piccoli gesti, da partire dalla camminata. Infatti una delle cose caratteristiche, diciamo, della meditazione di Ignatana è: quando cammini, quando appoggi il piede per terra, fai come, cioè, accarezza la terra, anche ogni passo deve avere un suo senso, una sua importanza. Devi concentrarti sul passo, sull'essere qui e ora, e non sull'obiettivo, non sul punto che vuoi raggiungere. Questo, diciamo, è qualche cosa che applicata alla vita quotidiana proprio ha un senso, ti cambia proprio una prospettiva, vedi il mondo e tutto quello che ti circonda in modo diverso. Questa cosa della meditazione camminata, peraltro, la proverò anche io, invito tutti anche a provarla, perché in occasione della, non, purtroppo non ce l'abbiamo fatta in tutte le città, ma dove è stato possibile, quindi a Milano, a Roma e a Firenze per ora, l'abbiamo organizzata, naturalmente, o meglio, l'ha organizzata il Plum Village, cioè i monaci che seguono il Plum Village in Italia, hanno organizzato delle meditazioni camminate per arrivare al cinema. Quindi, ad esempio, a Roma, al Pantheon, ci si trova alle 18 e camminando, e loro spiegheranno come, con questo, ovviamente l'importanza del respiro, come anche nella yoga, è fondamentale, quindi ogni passo respira, andranno poi al Barberini, alla Farnese, dove viene programmato il film. A Milano invece ci si trova al Giardino di Porta Venezia alle 19:30, e anche lì, con questa meditazione camminata, guidata naturalmente da loro che lo sanno fare molto bene, arriveremo al cinema, allo Spazio Overdone, a Firenze, al Cinema Odeon. Quindi c'è anche il modo, anche, abbiamo cercato anche di avvicinare da subito con queste cose, pure con la meditazione in sala, ad esempio all'Anteo di Milano, cioè per dare un po'. Una passeggiata di gruppo, diciamo, esatto, basta, esatto, che non venga lenta, scambiata per un corteo non autorizzato, insomma. Sarebbe il colmo, fermati dai vigili. No, comunque è una bella esperienza, ma invito comunque anche chi non ne sa niente ad andare, entri in un per 90 minuti, vai dentro in un mondo che ha dei ritmi diversi, che ha dei tempi diversi, è un'esperienza che consiglio a tutti. Senti Anastasia, ci lasci i riferimenti web per avere ulteriori dettagli sul documentario? Certo, allora naturalmente la nostra pagina Facebook è super attiva, è sempre aggiornata, quindi Wanted Cinema, poi il sito wantedcinema.eu, cioè proprio la parte dedicata al film, dove ci sono l'elenco delle sale che è in continuo aggiornamento. Poi c'è anche una pagina Facebook del film, anche in italiano, che si chiama walkwithme.it, dove anche lì comunque continuiamo ad aggiornare, e ci sono anche degli, cerchiamo di pubblicare anche un po' degli insegnamenti di Ndhiti Ignatana, insomma, per avvicinare anche il personaggio coloro che non lo conoscono ancora, ecco. Anastasia, un abbraccio e alla prossima. Grazie, ciao, a tutti. Ciao. Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario Walk With Me di Mark Francis e Max Pug, in uscita in sala il prossimo 12 settembre. Andrea Segre, regista del film L'Ordine delle Cose, in uscita in sala oggi, giovedì 7 settembre. Andrea, ben ritrovato. Ciao a tutti, ben trovati. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente L'Ordine delle Cose, Andrea. L'Ordine delle Cose è la storia di Corrado. Corrado è un funzionario del Ministero degli Interni che si occupa di fare quella cosa che adesso è molto discussa e di cui tutti sappiamo un qualcosina, che è l'accordo con la Libia per fermare i migranti. Ma grazie a Corrado intanto andiamo a vedere cosa significa, come si fa questo accordo, e soprattutto viviamo ciò che a lui poi succede, perché il film nasce da questa domanda, da questa curiosità, cioè chi sono le persone che poi si occupano di attivare questi accordi per fermare i migranti, che cosa

seguendo quelli che hanno la necessità alla fuga e quindi devono essere aiutati nel fuggire, ma che sono una minoranza, e chi invece ha un bisogno di migrazione economica, a cui dare, aprire dei canali regolari di questa migrazione economica, che sarebbe ampiamente sostenibile se incontrata nel punto di partenza e non nel punto di transito, di scontro, come continuiamo a fare. E tutto ciò aprirebbe un vero cambiamento dell'ordine delle cose. Invece continuare a occuparsi del braccio di mare a sud di Lampedusa e dell'attivazione della guardia costiera appena dall'altra parte dei centri di detenzione non risolve nulla, è l'ennesimo tappo disumano messo senza nessun tipo di strategia capace di costruire davvero un futuro di dialogo con questa situazione. Ed è l'assenza di questa strategia, quella è la stessa che poi fa sì che cresca la tensione nel paese, quella che mi dice di voler abbassare, ma continuerà a crescere nel momento in cui noi non facciamo altro che creare pressione mettendo i tappi, perché sono le pressioni che poi creano le tensioni, no? Sì. E questo farà crescere ovviamente i populismi e tutto il resto che cercano disperatamente di inseguire con scelte disumane che contro cui non vinceranno mai andando ancora più a destra di loro. Sì, sì, sì. Andrea, da oggi nelle sale, in quante sale? Siamo a una trentina di sale buone, ovviamente è sempre una lotta, è inutile che lo, è inutile che ve lo racconto, il mercato distributivo è un'altra questione molto complessa, però sono 30 sale che stanno lavorando bene sul film, che stiamo cercando di sostenere. Io sono in viaggio in questo momento verso Bolzano e Trento, domani sarò a Bergamo, dopodomani sarò a Milano. Su Roma le sale sono il Mignon e il Madison, nella speranza che possano crescere, se andate a vederlo altre sale lo prenderanno. Andrea, complimenti anche a partire dal cast. Grazie, sì, beh, è stato fondamentale il ruolo di Corrado affidato a Paolo Pierobon, è stata una scommessa, sì, molto importante. Siamo felicissimi. Paolo è un attore straordinario che non aveva mai avuto un ruolo da protagonista, che ha dimostrato la sua grandezza, sì, di avviso, ma insomma anche tutte le critiche lo confermano. E poi ci sono Beppe Battistone, Valentina Canaluzzi, e soprattutto ci sono 300 cosiddette comparse, no? Sono 300, sì, donne e uomini africani che hanno messo in scena ciò che hanno vissuto, ci hanno aiutato a ricostruire i centri di detenzione, a ricostruire le situazioni che io non ho mai vissuto fisicamente, che avevo studiato, ricercato, ma è il loro vissuto diretto che è quello che permette a questo film di essere un film che sta a cavallo tra messa in scena, cinema narrativo e documentario in realtà. Un abbraccio e risentirci presto, Andrea. Ciao Federico, grazie, ciao, a voi. Ciao. Andrea Segre, regista del film L'ordine delle cose, in uscita in sala oggi giovedì 7 settembre. Ritroviamo Claudia Bedogni di Satin Film Distribuzione per parlare del film The Teacher di Jean Rebelk, in uscita in sala oggi giovedì 7 settembre. Claudia, ben ritrovata, scusa se ho pronunciato male il nome del regista. Non devi scusarti con me, ma semmai con lui, perché io penso tutti e due dovremmo farlo, ovviamente, con il regista. Ciao, ben trovati, grazie come sempre dell'invito e dell'opportunità di visibilità che date ai nostri film. Grazie, è sempre un piacere essere con voi, essere invitati da voi. Allora partiamo dal presupposto che il film, come ti dicevo prima, non sono riuscito a vederlo, ma lo vedrò sicuramente, mi interessava molto, ho visto anche il trailer ed è stato un elemento che ha aggiunto interesse. Parlacene un po' tu. Sì, io guarda, mi scuso fin da ora per il particolare trasporto emotivo nel parlare di questo film, perché ammetto che c'è veramente anche un coinvolgimento personale. Ormai ci seguite da un po', insomma, e con affetto, e anche il pubblico che segue Satin avrà capito che per noi sono importanti i contenuti, oltre ovviamente a tutto l'aspetto, il valore cinematografico. E questo film, devo dire, è uno di quelli che immediatamente, appena l'ho visto, cioè già durante, nello scorrere delle immagini, ho detto assolutamente lo voglio portare in Italia, lo voglio condividere con il pubblico italiano, perché veramente coniuga tutto quello che è un po' la, diciamo, la nostra filosofia e come dire, e continua anche a mantenere viva la passione di fare il distributore cinematografico nonostante le grandi difficoltà, ovvero un film che intrattiene, perché il cinema innanzitutto è intrattenimento, quindi deve essere, la visione deve essere godibile, non deve essere una tortura, ma al tempo stesso comunica veramente dei valori importanti che rimangono dentro, che danno la possibilità anche di ragionare, di riflettere, di medesimarsi con quello che si vede, anche se parliamo di un contesto storico un po' diverso e anche molto lontano, vedendo come si è sviluppata a seguire poi la società internazionale, perché siamo a Bratislava nel 1983, quindi nell'allora Cecoslovacchia, che univa una Repubblica Federale che riuniva appunto la Repubblica Ceca socialista e la Repubblica Slovacca socialista, però era un unico Stato, e siamo in una società, in una Repubblica indipendente, che però ancora fortemente influenzata ovviamente dall'orbita e gravita intorno all'orbita sovietica. E la nostra protagonista, diabolica ma senz'altro affascinante e seduttiva, è questa insegnante di quella che è una classe secondaria, quindi diciamo tra medie, inizio liceo, quindi ragazzi intorno ai 14-15 anni, la quale all'inizio dell'anno scolastico, dall'apparenza così, l'insegnante più buona, facciosa del mondo, solare, con queste gonnellone colorate a fiori, le scarpette Charleston, al momento di fare l'appello, pone questa strana e curiosa domanda ai propri allievi, perché dice: oltre ai vostri nomi, ditemi anche la professione dei vostri genitori. E nel corso del film si capirà il perché questa astuta insegnante cerca di trarre beneficio personale dalle professioni dei genitori dei ragazzi, ovvero dalla mamma parrucchiera si fa fare i capelli, dal papà idraulico si fa aggiustare la lavatrice, e ovviamente non esita, nel momento in cui lascia la loro casa, sussurra all'orecchio di a tuo figlio o tua figlia di leggere la pagina tot. E se questa situazione, come dire, è gradita ad alcuni genitori, perché no, in fondo, che male c'è ad aiutare una donna sola, perché la nostra Maria D'Altrecova è vedova di un, tra l'altro tenuta anche in grande considerazione proprio dalla stessa preside, insomma dalla struttura scolastica, perché vedova di una speciale, quindi importante di potere, e lei stessa, presidentessa, la presenta per tutto comunista della scuola. E quindi alcuni genitori dicono che male c'è ad aiutare una donna sola, ma in fondo a loro fa piacere sapere che i loro figli avranno degli ottimi risultati a scuola, e altri genitori che invece dicono: no, noi ci sentiamo sporchi, ci sentiamo appunto, troviamo che tutto questo insegnato sia assolutamente ingiusto, e poi in fondo stiamo veramente facendo il bene per i nostri figli. Che voti avrebbero i nostri figli se noi non ci alzassimo alle 6 del mattino per fare la fila al mercato e comprare il brandy, le cotolette e tutto il cibo raffinato che la Maria D'Altrecova ci chiede? Quindi è molto interessante, perché i punti di riflessione sono tanti, perché tanti, insomma, di noi sono genitori, si pongono sempre l'obiettivo, no? Tutti vogliamo il meglio per i nostri figli, e quindi al di là di quello che è la prima lettura, che ovviamente è un contesto storico, un documento storico, perché siamo proiettati in una società comunque dove c'era uno status quo molto forte, una divisione in classe molto forte, tutto quello che veniva forse in più era come dire ben voluto, no? Con una prima, diciamo, lettura storiografica del contesto in cui è inserito il film. Ma in realtà il film va molto oltre proprio perché innanzitutto valorizza l'importanza dell'educazione scolastica come pietra miliare nella formazione di ogni individuo, cosa che non dico che si stia dimenticando, però è importante. Cioè, io stesso in primis ricordo ancora, cioè nel corso, e che penso anche voi, penso tutti, no, quanto sia importante l'insegnante, quello che ti ha lasciato nel corso della tua vita, quindi questo è valorizzato e trovo che sia bellissimo e fortissimo, perché proprio sia in maniera positiva che negativa influenza la vita di queste ragazze. E poi c'è il discorso comunque anche del genitore, perché il genitore che si pone da che parte stare in fondo, no? Cioè, siamo sicuri che veramente il meglio, cioè se il fine giustifica i mezzi, se veramente assecondare una richiesta poi in realtà porti veramente a fare il bene per i nostri figli. Quindi, insomma, gli interrogativi che si pone questo film sono tantissimi, e soprattutto lo fa in una maniera manichea, perché tutto è molto fluido, perché l'insegnante può avere le sue ragioni anche sopinabili, e i genitori non sono al tempo stesso immacolati. Quindi credo che sia anche così un'occasione quando il cinema propone degli argomenti sui quali si può discutere con gli amici, tirarsi un po' i capelli, pungersi, dibattere. Quindi è un film che, e tutto questo lo fa con dei toni comunque ironici, con un gusto anche del grottesco che è un po' tipico di queste cinematografie. Quindi è un film godibile, mi dispiace se mi spendo con grande passione, ma veramente ci sarei che il pubblico italiano lo vedesse, anche perché per noi è una grande scommessa finalmente poter dimostrare che una cinematografia cosiddetta periferica, solo perché viene da un paese, ecco, non è la Francia, quindi non è, ma ha una limitata produzione, comunque dei autori che sono grandi, che ricordiamo che il regista Gerard Verbeek è stato comunque candidato all'Oscar anni fa con Divisi per, comunque anche questo tipo di cinematografia è capace veramente di produrre un'opera di intrattenimento di alto livello, e questo l'ha detto anche la stampa, che non è solamente il nostro pensiero, che riesce a parlare al grande pubblico e riesce anche a portare avanti dei temi e degli argomenti che sono profondi e universali. Scusate se mi sono dilungata con tutto questo pathos emotivo. Claudia, in chiusura ti chiedo allora i riferimenti web per saperne di più anche rispetto alle sale di distribuzione. Certo, noi inizieremo, perché chiaramente è sempre una sfida, quindi abbiamo cercato di collocare l'uscita alla vigilia dell'apertura delle scuole, anche perché sarebbe bello pensare che il film venga anche visto proprio dai professori, dagli insegnanti, dagli allievi, quindi fargli avere una vita lunga. Però è, come voi sapete benissimo, è anche l'inizio della stagione cinematografica, quindi la competizione è molto forte, quindi inizieremo con un 25-30 copie, speriamo però che possano avere vita lunga, speriamo di poter allargare, anche perché ci piacerebbe che il film arrivasse in profondità anche in provincia, quindi non solamente nelle sale dedicate al cinema, all'apprezzamento del cinema appunto delle serie di qualità. E quindi sì, troverete tutti i riferimenti sui nostri social, che sono appunto Facebook Satine, la pagina Facebook di The Teacher, Una lezione da non dimenticare. Un abbraccio, alla prossima, ciao Claudia. Grazie ancora, grazie, ciao a tutti. Claudia Bedogni di Satin Film Distribuzione sul film The Teacher di Jan Rebeck, in uscita in sala oggi giovedì 7 settembre. Questo è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla trasmissione e sulla scaletta le trovate sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, all'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Eccoci con Alessandro Rossi e Michele Mellara, registi del cortometraggio L'Incontro, che sarà alla 74esima mostra d'arte cinematografica di Venezia domani 8 settembre. Alessandro e Michele, intanto ben ritrovati su queste frequenze. Ciao Federico, grazie, io sono Alessandro, Michele dopo te lo passo, e grazie da parte di entrambi per ospitarci ancora, siamo molto felici di questo. Allora, facciamo così che vi alternerete nelle risposte, cominciamo parlando dell'argomento trattato dal vostro cortometraggio. Allora, il cortometraggio si chiama L'Incontro ed è il racconto in chiave commedia di un giovane marocchino di seconda generazione, nel senso cresciuto in Italia, che pratica la boxe e deve fare questo incontro di boxe molto importante, ma mentre attende di salire sul ring, il mondo esterno, fatto di problemi familiari, di problemi di amicizie, di problemi legati alla condizione di straniero in Italia, precipita dentro agli spogliatoi della palestra, confondendoli, creandogli confusione. Quindi è un incontro di box, ma è anche un incontro con la difficoltà del mondo esterno, soprattutto il protagonista è questo giovane sedicenne marocchino. Come nasce tutto? Come nasce il... sono Michele, come ciao, nasce Michele. L'idea? Sì, ciao. Beh sì, sì, il progetto film, sì. Ma in realtà io e Alessandro abbiamo sempre scritto per la fiction a balzi, poi alcuni progetti ovviamente non sono andati in porto, altri hanno preso delle strade più lunghe. Qui l'occasione è stato questo bando Migrarti, che è un bando dedicato appunto alla realizzazione di cortometraggi, di fiction o di documentari su il tema delle seconde generazioni in Italia, e quindi è stato lo spunto per elaborare questa storia. Poi io e Alessandro abbiamo incontrato delle associazioni che operano con stranieri a Bologna, abbiamo raccolto del materiale narrativo dal vivo, insomma sentendo le loro storie, e dalle loro storie abbiamo, come dire, pescato lo spunto per sviluppare poi una vicenda di fiction. Senti, ecco, come è stato poi lavorare su questa idea, anche in base ai materiali che avevate in mano? Ma come è stato, dici? Sì. Sono tornato dalle sasse, qua abbiamo il passaggio del telefono, quindi c'è un certo. Secondo che perdiamo l'inizio della domanda. Ciao. È interessante, nel senso che c'è una partenza di documentazione, di ricerca, che quindi ha a che fare anche molto con il nostro lavoro di documentaristi, certo, che tu ben conosci. E poi c'è un contatto con realtà che conoscevamo anche da molto tempo, che sono della nostra città, ad esempio la palestra dove è ambientato il cortometraggio, la palestra popolare del TPO, che è un centro sociale storico di Bologna, quindi è un mondo col quale abbiamo una vicinanza e una consonanza anche di vedute, di visioni. E, è stato molto interessante anche inserire, lavorare con questi giovani, abbiamo molti attori nel nostro corto, perché sono tante storie in realtà che girano attorno ad Amin, che è il protagonista. La maggior parte di questi interpreti non sono attori professionisti, eccezione fatta per l'allenatore, che è Bob Messini, e quindi lavorare con dei non professionisti insieme a un professionista di esperienza come Bob è stato molto interessante, molto affascinante, penso proprio per tutto il gruppo dei partecipanti. Ripasso Michele. No, interessante questo abbinamento tra, insomma, seconde generazioni e questione ius soli e sport, perché lo sport pone la questione in maniera differente, anche perché nello sport, soprattutto certi sport, la questione si pone rispetto a queste identità di queste persone, e in certi ambienti girano parecchi soldi, quindi è ancora più scottante il tema. Sì, noi abbiamo, il corto racconta la storia di un adolescente, sì, che deve svolgere il suo incontro appunto per il titolo nazionale, titolo allievi, quindi come dire di pugilato, certo. Il pugilato comunque è uno di quegli sport che non rientra in piena categoria, sì, negli sport ricchi, certo, diciamo. Certo. E quindi, come dire, l'ambiente anche umano all'interno della palestra ci sembra un ambiente più salutare, più... meno viziato, certo. Sì, meno viziato nella logica del profitto, della carriera a tutti i costi, eccetera. Senti, che destino avrà il cortometraggio? Che percorso farà? Beh, lo presentiamo in anteprima domani qui a Venezia, e poi sarà possibile vederlo per un mese nel canale digitale di Rai Cinema, ed è stato uno dei 10 progetti selezionati anche per Rai 1, quindi prossimamente dovrebbe essere trasmesso su Rai 1, a data da definirsi, perché non sappiamo ancora la data. Poi in più comunque noi parteciperemo ad altri festival, e quindi dovrebbe vedersi anche nel circuito del festival, dei festival sia in Italia che all'estero. Ecco. Bene. E in chiusura ci lasciate tutti i riferimenti web per saperne di più? Ma come sempre tutti i riferimenti sono sul nostro sito, c'è www.mammutfilm.it, dove c'è la scheda del film, le immagini, e poi da lì si può arrivare anche a un po' di rassegna stampa, e su Facebook si può trovare comunque i riferimenti dell'evento di oggi. Poi terremo ovviamente aggiornate queste pagine con i link anche al canale di Rai Cinema, dove sarà possibile poi visionare e vedere il corto, sperando che piaccia. Bene, bene. Allora, Alessandro e Michele, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, poi se vi piace votatelo, perché quello che dimenticavamo, su Rai Cinema Channel è un concorso. Ah, ok. Sarà un vincitore. Certo, certo. Va bene. Allora, a presto. Grazie, Federico. Ciao, ciao, ciao, ciao. Alessandro Rossi e Michele Mellara, registi del corto L'Incontro, che sarà a Venezia alla Mostra del Cinema domani 8 settembre. Edoardo Whisper, regista del film La vita in comune, in uscita in sala oggi giovedì 7 settembre. Edoardo, ben ritrovato. Grazie, ciao a tutti, ciao Federico. Allora, intanto complimenti, sono riuscito a vederlo il film e uno dei personaggi, secondo me, è uno dei tuoi più riusciti in assoluto. Ah, grazie. Hai un ottimo gusto. Allora, Edoardo, raccontaci un po' di cosa si parla. Allora, Vita in Comune è la storia di un paese che si chiama Disperata. Notate bene che io vivevo in un paese che si chiama Depressa, quindi il riferimento è evidente. Questo paese è un paese abbandonato da Dio, dimenticato da Dio, dove c'è un sindaco che si chiama Filippo Pisanelli, molto gentile, molto, molto colto, ma depresso, perché non è capace di fare il suo lavoro di sindaco, perché non riesce a mantenere la maggioranza, affrontare l'opposizione, un po' la metafora di tanti sindaci italiani, e la sua amicizia strana, inconsueta, a un certo punto della storia, con due banditi, ex banditi, e come questa amicizia sarà foriera di rinascita sociale e culturale del paese. Il tema del film è un po' anche la scoperta della bellezza, della poesia, da parte di qualcuno che fino all'altro ieri faceva le rapine, e come questa sia un'epifania, e come come le persone più incredibili, perché sono tutti un po' deboli, scalcagnati, fragili, paradossali, imparino a sognare, e questi sogni vengono addirittura realizzati, sogni folli, assurdi, ma sempre sogni. Senti, Edoardo, come viene fuori questo progetto? Allora, un po' è un figlio del mio altro film, del mio precedente film, che si chiama Grazie di Dio, con tutti gli attori dell'altro film, solo che è una commedia seria, perché si dovrebbe ridere, ma penso che si rida, si sorrida almeno, con dei temi importanti, come la tutela dell'ambiente, la scoperta appunto della trasmissione della cultura da parte di una persona colta a una persona meno colta, e la scoperta da parte di quest'ultima della bellezza. Volevo fare una commedia, volevo avere dei toni leggeri per raccontare delle cose importanti. Senti, Edoardo, è quell'idea di questi incontri in carcere, incontri letterari in carcere? Guarda, tutto è un po' biografico, autobiografico, perché io ho occupato di ambiente, ho fatto una volta per 3-4 mesi un seminario al carcere minorile, ho fatto un film, uno si immagina chissà che queste persone mai si interesseranno, non so, i ragazzi nel mio caso di cinema, di arte, invece erano tutti appassionati, ci siamo molto divertiti, loro volevano fare gli attori, sceneggiatori, registi, quindi per me il recupero dei detenuti, ma il recupero di chiunque sia rimasto indietro nella società è molto importante. Solo così vale la pena di vivere in comune. Per me anche dietro c'è un motivo sociale. Io per me l'arte non è fare delle cose belle stando nella torre d'avorio, ma avendo un senso nella società, e quindi per questo. Sì. Senti, Edoardo, chiaramente anche dal punto di vista stilistico si nota la tua vicinanza a quella terra e all'amore che hai per essa. Un'altra curiosità è relativa alle poesie. Allora, parte delle poesie sono piuttosto significative, e volevo chiederti da dove vengono. Ah, le poesie sono molto naif, perché sarebbero scritte da Pati. No, l'ho scritto insieme, piuttosto il mio sceneggiatore Alessandro Valenti, io ci ho messo la mano un poco, quindi no, sono. Perché tutto il film parte dal senso di colpa di questo bandito cialtrone che si mette in discussione come criminale perché ha ucciso un cane durante la rapina. Puoi immaginarti le risate che suscita negli altri carcerati, gli altri detenuti, perché dice: ah, visto, ci sono cane, e lui si preoccupa di questo cane, e da lì tutta la sua poesia c'è sempre questa presenza del cane, il cane che vola. E quindi siamo divertiti. Senti Edoardo, in quante sale? Allora, è uscito in 37 sale e a Roma è, scusa, faccio un po' di pubblicità, aiutami. Allora, al Jolly, al Lux, al Madison, al Greenwich, al Savoy e al Giulio Cesare, penso. Però controllate bene. È un film molto divertente. Sì, è un film molto divertente che racconta delle cose importanti, naturalmente lo dico io. Quindi però sì, è molto divertente, ci sono delle trovate veramente simpatiche. Allora Edoardo, è sempre un piacere, ricordiamolo, La vita in comune in uscita in sala oggi giovedì 7 settembre. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Credi, grazie a tutti gli amici di Radio Onda Rossa, grazie, arrivederci, ciao Federico, ciao. Antonietta De Lillo, regista del mediometraggio, il signor Rod Peter in proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia domani 8 settembre. Antonietta, eccoci qua, ben ritrovata. Ben ritrovati a tutti voi. Allora, mi incuriosiva molto questo titolo, ce ne parli un po'? Sì, anche a me mi ha incuriosito molto questo personaggio del signor Rod Peter, che era una scimmia ma è stato costretto a diventare un umano. Tutto nasce da un testo di Kafka, che appunto è la relazione all'Accademia, che io ho visto interpretato dalla grandissima Marina Confalone all'Università di Napoli, e ho deciso innanzitutto che il testo mi ha colpito, perché questa scimmia costretta a diventare umano per trovare una via d'uscita mi sembrava rappresentare la storia di tanti noi umani, a volte costretti a perdere la nostra umanità, e quindi ho deciso di portarlo fuori dalle pagine di Kafka e farne un ritratto, il mio primo ritratto fantasy, interpretato da una grandiosa Marina Confalone, che appunto ci fa riflettere, ci fa ridere, e soprattutto è veramente è un personaggio credibile, un personaggio che ci sembra incontrare al bar piuttosto che all'università, ed è anche un film che devo dire porta alla mostra un'altra, anche una Napoli diversa, un'altra faccia della città che io amo evidentemente. Antonietta, come ti sei rapportata sia al testo che allo spettacolo teatrale? Mi sono rapportata, come ormai io sono diciamo una veterana di rapportarmi ai testi, penso a Resto di Niente, era un libro estremamente amato da tanti, mi sono rapportata con rispetto ma anche con audacia e bizzarria. Così ho preso ci sono frammenti del testo che rappresentano proprio la memoria del personaggio. E poi c'è questo personaggio invece immerso in una contemporaneità che ci dona una lunga intervista con la voce di Aglaia Moro, non si vede, la giornalista, ed è un testo originale scritto da me, Marcello Garofalo, ed è una scimmia intellettuale che però ci fa scoprire anche i suoi piccoli segreti, cioè che gli piace andare al bosco di Capodimonte con la moglie a catturare insetti perché sono il suo cibo preferito, che lui continua a mangiare anche di nascosto. Sì, anche se sarà il futuro, perché insomma si cominciano già a mangiare gli insetti e sempre su vasca sempre più su vasta scala, quindi sarà la nostra dieta futura. Senti, Antonietta, la scelta di questo formato mediometraggio? la scelta di questo formato è perché quest'opera, che devo dire, è stata fatta veramente con istinto e passione verso ciò che si vede e ciò che piace. È una scelta puramente culturale, non abbiamo avuto nessun tipo di limite, e abbiamo pensato quanto viene, quello è. Perché secondo me il bello anche del cinema, anche della vita, è fare prodotti diversi, a volte prodotti più mirati verso un'idea industriale, a volte prodotti liberi, come Rockpeter. Rockpeter non immaginavo mai che con un lavoro così bizzarro di riuscire a stare dopo 12 anni dopo 12 anni dal resto di niente al Festival di Venezia nella sezione ufficiale, quindi sono con un piccolo lavoro, ma che evidentemente ha cuore, insomma arriva la gente, o perlomeno è arrivato ai selezionatori del festival. Senti, a proposito di passione, per quanto riguarda poi la visibilità, la distribuzione, che... La visibilità è anche questo, io sono una fuori... fuori tutto, ma oggi, grazie alla tecnologia che un po', insomma, io vengo dalla fotografia, insomma, sono un regista anche un po' meccanico, sono sicura che questo lavoro ora facciamolo nascere qui al festival, perché come sai è il momento in cui nasce, ti rendi conto grazie agli occhi degli spettatori che cosa hai fatto, e dopodiché con la valorosa, per me, Mare Chiaro Film, che è questa società che ho fondato e che ormai ci fa Alice Mariani, insomma ci sono tante altre persone, la vedremo in distribuzione nelle sale, spero in streaming, in DVD, e tra altre cose segnalo che proprio in questi giorni sta uscendo con Cecchi Cori Group due miei lavori, cioè il secondo film partecipato, Oggi Insieme Domani Anche, il DVD si trova in edicola, e anche Let's Go. E la mia idea è che potremmo iniziare un piccolo tour con i miei ultimi lavori. Benissimo, e allora ci farai sapere. Certamente. Un abbraccio in bocca al lupo. Con le dita incrociate. Ok. Ripetere sia per la pioggia, che spero che non bagnerà il Lido, anche perché vorrei ancora stare all'aria aperta a prendermi questo grande caffè mentre parlo con te. Antonietta, t'abbraccio e a presto. Ciao. Antonietta De Lillo, regista del mediometraggio Il signor Rockpeter, che sarà a Venezia domani 8 settembre. Antonello Faretta di Rete Cinema Basilicata per parlare di Terramare, primo cinecamp euro-mediterraneo a Bernalda, in provincia di Matera, dall'8 al 10 settembre. Antonello, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buonasera, buon pomeriggio e un saluto a tutti i visionari in collegamento con Radio Onda Rossa. Un saluto da Bernalda, la terra di Francis Ford Coppola, ci alterniamo in questa staffetta, lui cittadino onorario di questa magnifica terra lucana. È stato qui pochi giorni fa in occasione del santo patrono San Bernardino, e ci alterniamo in questi tre giorni in questo cinecamp euro-mediterraneo in cui iniziamo questo progetto con la Fondazione Matera 2019, in cui cerchiamo di confrontarci con i principali attori, tra quelli istituzionali e quelli della produzione cinematografica in questa terra, in un ragionamento tra cinema e imprese a sud, alla luce di questa importante sfida rappresentata da Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019. Avremo numerosissimi ospiti, tra cui, come accennavo poco fa, rappresentanti della regione Basilicata e rappresentanti della Lucana Film Commission e della Puglia Film Commission, oltre che del comune di Bari e del comune di Matera. E avremo alcuni focus specifici in cui abbiamo l'ambizione di interrogarci sulla nuova modernità rappresentata da Matera fino a qualche tempo fa. Come sappiamo, erano luoghi abbastanza marginali dal punto di vista non soltanto culturale, ma prima ancora antropologico. Questa nuova sfida ci permette di rileggere questo concetto di margini, o meglio di far collimare questo concetto di margini con il concetto di centro, ragion per cui queste giornate saranno un'occasione di, se vogliamo, di coprogettazione in vista di un festival vero e proprio di area euro-mediterranea che si terrà a partire dal prossimo anno, come dire, prendendo la rincorsa in attesa di questa grande esplosione di eventi che sarà, che avrà come epicentro appunto Matera, per estendersi poi in tutta la Basilicata, di un festival, come dicevo, area euro-mediterranea, per leggere appunto Matera come capitale sì europea della cultura, ma soprattutto come capitale del Mediterraneo. Come sappiamo, la storia torna a passare attraverso il Mediterraneo, quindi grazie alla lente di ingrandimento del cinema del reale, non soltanto il cinema, come dire, documentario tout court, ma il cinema che si occupa dei fatti del reale, ci auguriamo di portare qui a Matera proprio quel cinema che riesca a aprire delle riflessioni importanti sulla storia contemporanea che sta passando appunto da queste latitudini. Antonello, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, il programma completo è scaricabile dal sito di Rete Cinema, che è l'organizzatore di questa tre giorni. Rete Cinema è l'organizzazione e l'associazione dei lavoratori, dei professionisti e delle imprese del cinema della Basilicata. Il sito ufficiale da cui scaricare tutti i materiali è www.retecinemabasilicata.it. In questi giorni sui nostri social, su Twitter e su il nostro canale Facebook, avremo delle dirette, quindi sarà possibile seguire anche a distanza, indifferita, diciamo così, tutti quanti gli eventi attraverso delle dirette. E l'ingresso, ricordo che è gratuito, quindi siete benvenuti qui a Bernalda durante questi tre giorni, 8, 9 e 10 di settembre, venerdì, sabato e domenica. Bene, allora un augurio, in bocca al lupo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie Federico, un saluto a tutti, buon lavoro, a presto. Ciao, grazie. Antonello Faretta di Rete Cinema Basilicata su Terramare, primo cinecamp euro-mediterraneo a Bernalda, provincia di Matera, dall'8 al 10 di settembre. Con Maurizio Tiebat di Ambi Media Italia sulla distribuzione del film In Dubius Battle, Il coraggio degli ultimi, di James Franco, in uscita in sala oggi giovedì 7 settembre. Maurizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per l'invito, un saluto a tutti. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la storia, di cosa si parla in questo film. Si parla di minoranze e diritti, di emigrazione, di lavoro. Si parla di un film tratto da uno dei più potenti romanzi di Steinbeck. È la terza volta che James Franco si cimenta come regista e attore, rivisitando grandi classici della letteratura americana. È una bellissima storia corale, direi che la potenza narrativa di Steinbeck è rimasta veramente incontaminata in questa pellicola. E si parla di un gruppo di attivisti, fra cui James Franco, che si infiltrano nei gruppi dei braccianti che raccoglievano le mele nella California negli anni 30, istigando, diciamo, le prime rivendicazioni per i loro diritti di lavoratori. Un film sicuramente non mass market, però un film raccontato veramente molto bene. Senti, a proposito di questa sua trasposizione dei classici della letteratura americana, da Faulkner a McCarthy per arrivare appunto a Steinbeck, come ti sembrano queste operazioni complessivamente? Ma allora, in senso lato, se sono delle operazioni rispettose del testo, e devo dire che il lavoro che fa James Franco in questo senso è un lavoro estremamente curato, approfondito, documentato, intelligente, sono operazioni che funzionano. Il timore nostro di distribuzione italiana è che dentro questa rilettura ci fosse molto Hollywood, che fosse diventato il romanzo di Steinbeck un po' un'americanata cinematografica. Invece devo dire che il lavoro è stato fatto in maniera estremamente misurata e giudizio non di parte, giudizio proprio da appassionato di cinema. In questo film c'è tutto lo spirito del romanzo, c'è bella potenza narrativa, c'è un cast straordinario, fra cui fra l'altro vorrei ricordare Selena Gomez, che è una presenza che anche in questo ruolo così impegnato si fa valere al 100%. Bel film da vedere. Sì. Un altro elemento importante per secondo il mio punto di vista è quello dell'aver collocato questa storia in uno spazio, in un luogo connotati da una forte violenza. Allora le prime lotte sindacali e dei lavoratori significavano sangue e morti. Sì, assolutamente. Devo dire che, agganciandomi a quello che tu dici, a noi questo film è piaciuto perché è una storia poi estremamente attuale. Sì, sì. Poco fa dicevo che è un film dove si parla di minoranze, diritti, immigrazione, lavoro, e ci rendiamo conto, ancorché il film sia ambientato in America degli anni 30, come poi in fondo stiamo girando anche nell'attualità di oggi sempre intorno a questi temi. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto di portarlo in Italia, di portarlo in questo momento, perché credo che poi il cinema debba essere anche un po' questo, no? Cioè, certo. Aiutarci a comprendere quello che stiamo vivendo, rileggendolo magari da un altro punto di vista. Sì, sì, sì, sì. Senti Maurizio, che forma distributiva avete scelto? Abbiamo scelto, ovviamente, viste le caratteristiche del film, che come dicevo prima non è proprio la pellicola mainstream, una distribuzione in tanta copertura sicuramente di tutta Italia, andando a scegliere magari le sale, quelle un po' più piccole, un po' più raccolte, a questo genere di film. Siamo in oltre 50 sale in Italia, tre sono le sale in cui Indubius Battle sarà proiettato a Roma, e misurata e oculata la definirei. Sì, sì, sì. Senti, ci lasci i riferimenti web per saperne di più sul film e sulla distribuzione? Guarda, i riferimenti web mi cogli impreparato sicuramente la mia memoria. lo si trova perché la campagna web sul film è stata direi, come di solito facciamo, piuttosto intensa e massiva. Google ci aiuta, Indubius Battle, James Franco, si trova tutto. Perfetto. Maurizio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti e un saluto e buon pomeriggio. Ciao. Maurizio Thiebat di Ambi Media Italia sulla distribuzione del film Indubius Battle, Il coraggio degli ultimi di James Franco, in uscita in sala oggi giovedì 7 settembre. E siamo in collegamento con Valentina Pedicini per parlare del suo film Dove cadono le ombre. È uscito ieri in sala, mercoledì 6 settembre. Valentina, intanto ben ritrovata. Ciao Federico, ciao a tutti e grazie. Intanto ti chiedo com'è andato questo esordio ieri. In sala è andato abbastanza bene, molto bene, e io sono invece di nuovo a Venezia perché abbiamo appena ritirato il premio per la nostra attrice protagonista come miglior rivelazione del festival, e quindi diciamo sono molto contenta, sta andando tutto bene. Un'attrice tra l'altro di provenienza teatrale. Sì, Federica Rosellini è una bravissima attrice di teatrale, era al suo esordio al cinema di finzione, quindi un doppio esordio per me, il primo lungo di finzione, per lei è l'esordio cinematografico. Tra l'altro è stata anche nostra ospite per i suoi lavori teatrali qui a Roma. Sì. Senti Valentina, ecco, a proposito del tuo debutto, com'è stato il cimentarsi nel lungometraggio di finzione? Guarda, è stata un'esperienza straordinaria, molto molto bella. È stato molto importante modificare e cambiare il linguaggio cinematografico, ma anche tecnicamente muoversi con una troupe di 40 persone, la direzione con degli attori, arrivando dal documentario, veramente sono state tutte elementi che mi hanno cambiato, però è stato un viaggio straordinario, molto bello, molto intenso, su una storia vera, e quindi comunque c'era anche tanto del mio lato documentaristico anche in questo tipo di preparazione, almeno di preparazione per il film. Sì. Ecco, proprio a questo proposito, si parla di memoria storica, una storia ben poco conosciuta, di eugenetica e cancellazione etnica. Assolutamente sì, è una storia che conosciamo in pochissimi, avvenuta in Svizzera dal 1926 fino al 1989. E io appunto lavoravo un documentario su una delle pochissime sopravvissute, che è una poetessa e una scrittrice jenisch, Mariella Mehr, e poi mi sono resa conto che linguisticamente avevo voglia di sperimentare la finzione, la realtà che andavo a raccontare era così terribile che forse il mezzo della finzione poteva aiutarmi ad accendere una luce su una storia così dura e così poco conosciuta, e quindi è nato Dove cadono le ombre. Valentina, ecco, qual è la storia di questa minoranza? Allora, gli Jenisch sono chiamati gli zingari bianchi ed erano appunto prima che la Svizzera commettesse quello che è stato definito un piccolo genocidio, erano l'etnia rom più numerosa nella zona della Svizzera tedesca. E come ti dicevo prima, il governo svizzero, affiancato da un'associazione che si chiama Pro Juventute, ha iniziato a partire dal 1926 a sottrarre questi bambini jenisch alle famiglie di origine, a chiuderli in orfanotrofi e a sottoporli a una serie di pratiche mediche terribili per cancellare l'identità originaria e riprogrammarli in qualche modo, sulla base del principio che il nomadismo appunto è una malattia ereditaria che si trasmetteva di madre in figlio, e che quindi il primo passo fosse quello di separare i bambini dalle famiglie di origine. Mm-hmm. È un tentativo, diciamo, di sterminio scientifico ispirato, come dicevi tu, ai principi dell'eugenetica. La cosa sconcertante che poi mi ha convinto ancora di più ad affrontare una storia così dura sono le date, visto che l'ultimo istituto è stato chiuso nell'86, quindi molto in là rispetto, diciamo, al fenomeno simile che già c'era stato durante la fase nazista. È accaduto l'altro ieri, quindi sì, c'è anche una contemporaneità e un'urgenza rispetto a questa vicenda. Tra l'altro, come spesso succede, ci sono state le scuse ufficiali e pubbliche, ma nessuno ha pagato. Assolutamente. Mm-hmm. Le scuse, tra l'altro, arrivate tardivamente da parte della Svizzera, soltanto nell'89, ma non c'è mai stato nessun tipo di processo, nessuna condanna e nessun tipo di, diciamo, di tutti i medici coinvolti, politici, burocrati, hanno continuato a lavorare indisturbati. Mm-hmm. Un'altra curiosità, Valentina, è cosa ne è oggi di questa comunità? Allora, c'è una piccolissima comunità che resiste in Svizzera, che lotta ancora perché questa storia venga conosciuta e per i propri diritti. E tantissimi, purtroppo, di tantissimi non si hanno notizie di questi bambini, le cifre non sono ufficiali, parlano dai 700 ai 5000 bambini scomparsi, e per molti altri invece jenisch è stato molto difficile, una volta uscito dagli istituti, riappropriarsi della propria identità, e quindi in qualche modo hanno cancellato volutamente l'origine e non vogliono più essere riconosciuti come jenisch. Mm-hmm. Però c'è una comunità invece molto piccola, come ti dicevo, che continua a lottare e che resiste. Oh, Valentina, tornando al film, come hai deciso di tradurre in una storia personale questo dramma collettivo? È una bellissima domanda, è stato un lavoro molto bello e molto intenso con la sceneggiatrice, con Francesca Manieri, e io non sentivo eticamente in qualche modo il diritto di raccontare storiograficamente questa vicenda. Non lo volevo fare per una questione anche cinematografica, che è il mio modo di affrontare, di approcciarmi al cinema, ma anche praticamente ho lavorato molto su Mariella Mer, che è una di quelle 700 storie vere, e quindi abbiamo fatto in modo che nel film la parte storica affiorasse attraverso dei flashback e che invece la vicenda reale diventasse molto più simile ad una favola nera e che prendesse della favola nera, diciamo, l'archetipo del rapporto fra vittima e carnefice, fra le due protagoniste femminili di questo film, appunto Gertrude interpretata da Elena Cotta e Anna interpretata da Federica Rosellini. Ecco, l'opzione di un cast teatrale mi sembra un'altra scelta importante. Sì, sono state fatte, ho fatto, parlo al plurale, per allontanarle da me, ma sono scelte che ho voluto fortemente, un po' perché anche la sceneggiatura ha un impianto in qualche modo di tipo teatrale ed era per me l'unico modo per raccontare questa vicenda. Un po' avevo bisogno di attori molto forti, strutturati, ma anche con dei visi poco conosciuti dal punto di vista cinematografico. E quindi quando ho incontrato Federica, Elena, Josafat, Vagni, ho capito che questo, insomma, sarebbe stato il cast ideale per questo film. Bene, bene. Senti, per quanto riguarda l'uscita, come sta andando? Quante sono le sale? Come saranno gli sviluppi? Allora, è uscito ieri in sala, per adesso ci sono 30-35 sale in tutta Italia. Chiaramente, come sappiamo tutti, questo è il momento più difficile, e non perché ci sia la prova del pubblico, ma perché i film hanno bisogno di essere accompagnati, sostenuti ed amati, quindi speriamo bene. Invito tutti chiaramente ad andare in sala anche per appropriarsi di una storia che è accaduta a pochi passi da noi e che credo meriti di essere conosciuta. Sì. Senti, in rete per saperne di più? In rete c'è la pagina Dove cadono le ombre, la pagina Facebook oppure la pagina della produzione. Il film è prodotto da Fandango, Domenico Procacci e Laura Paolucci insieme a Rai Cinema. E poi chiaramente ci sono io per tutte le critiche, le accuse oppure quello che verrà da questo film o anche le cose belle che verranno, come già insomma in qualche modo stanno arrivando. Però c'è una pagina ufficiale Dove cadono le ombre. Ecco, proprio a questo proposito mi hai fatto venire in mente, con la comunità, che reazioni ci sono state al tuo film? Guarda, è una sanno. E questa è la grande forza del mondo da cui provengo, che è quello del documentario. Chiaramente io lavoro da 4 anni a questa storia e in questi 4 anni ho vissuto e collaborato accanto a Mariella Mer, che è una delle poche sopravvissute, e a molti della comunità Yenish. Quindi conoscono esattamente quello che stavo andando a raccontare. E adesso il grande passo è, dopo averlo fatto vedere a Mariella, portare il film in Svizzera e fare in modo che le persone, insomma, della comunità Yenish si riconoscano. Valentina, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi Federico, grazie di tutto e grazie mille a voi come sempre, un abbraccio grandissimo. Ciao. Valentina Pedicini, regista del film Dove cadono le ombre, in uscita in sala ieri mercoledì 6 settembre, e con lei chiudiamo questa settimana di Visionari. Torniamo giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page trovate Ascolta la diretta, e sempre sull'home page nella colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, trovate la scaletta della trasmissione e tutte le informazioni relative ad essa, e idem sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. Per comunicare con noi c'è anche l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.